America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. President Trump announced that he plans to impose a 20% import tax to pay for the wall. However, keep in mind that Mexico is our third largest goods trading partner. Beh, lo avete sentito dal tono del newscaster. Donald Trump ha colpito, devo dire, in modo inaspettato, perché ieri, in teoria, doveva essere una giornata relativamente tranquilla. E invece, la sorpresa è stata triplice, con una escalation, tra l'altro, che nessuno si sarebbe aspettato, perché si è partito ieri mattina con una polemica bilaterale fra Messico e Stati Uniti su chi avrebbe finanziato il muro di Trump al confine fra i due paesi. Si è passati per l'annullamento del viaggio del presidente messicano Nieto a Washington, che era previsto per la settimana prossima, e poi la bomba, guerra commerciale. Tariffe del 20%, non solo per il Messico, perché poi con quel 20% si pagherà anche il muro, ma potenzialmente per tutti, e quindi forse anche per noi, forse anche per l'Italia. As a means to tax imports from countries that we have a trade deficit from, like Mexico, but by doing it that way we can do $10 billion a year and easily pay for the wall. Ecco, la notizia ce l'ha data Sean Spicer, il portavoce della Casa Bianca. Parlando col pool dei giornalisti, dice: beh, all'interno di una ristrutturazione del sistema fiscale che stiamo organizzando, abbiamo considerato una tariffa per quei paesi nei cui confronti abbiamo un deficit commerciale, come il Messico. Se tassiamo del 20% 60 miliardi di deficit che abbiamo con il Messico, possiamo tranquillamente finanziare il muro. Ecco, Spicer non è stato chiarissimo, devo dire, anche questo dimostra, come dire, non una grande professionalità, perché nel momento in cui si deve fare un annuncio di questo genere, beh, questo annuncio deve essere preparato, organizzato, strutturato e fatto con tutti gli elementi di certezza e di dettaglio del caso, perché stiamo parlando di una svolta. C'è un accordo di libero scambio con il Messico, imporre una tariffa del 20% non è cosa da poco. Se poi aggiungi che quella tariffa può essere estesa a 160 paesi che applicano tariffe anche loro nei confronti degli Stati Uniti, o comunque a tutti quei paesi che hanno un avanzo nei confronti degli Stati Uniti, e l'Italia ha un avanzo di 27 miliardi nel 2015, forse lo avremo di quasi 30 miliardi per l'intero 2016, ha di fatto confermato in modo concreto che l'idea del presidente Trump è appunto quella di estendere nuove tariffe a tutti i paesi che hanno questo surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. E tariffe di quanto? Del 20, del 10, del 5? Ecco, questo non lo ha detto. Sappiamo che era il 20% per il Messico, ma a un certo punto è sembrato che fosse del 20% per tutti gli altri paesi, e soprattutto tariffe anche per le importazioni del vino italiano, delle macchine utensili, della moda, dei 1000 prodotti che fanno l'interscambio fra noi e gli Stati Uniti d'America. Ma forse no, forse ci saranno dei parametri per compensare le tariffe, perché l'Italia in America investe, non fa operazioni di dumping, soprattutto non ci sono aziende americane che vengono in Italia per poi rivendere negli Stati Uniti, come succede con il Messico o come succede per esempio con la Cina. Ecco, il portavoce ha precisato che i paesi più vulnerabili sono appunto quelli, però tutto avviene in un alone di incertezza, e devo dire che quando parla il presidente degli Stati Uniti e fa degli annunci di questo genere, non possono certamente essere presi sotto gamba. Ecco, poi in serata la Casa Bianca ha voluto precisare che questi dazi del 20% sulle merci americane per finanziare la costruzione del muro è soltanto una delle ipotesi al vaglio del presidente Donald Trump, però ecco, peggio mi sento, perché dirlo se poi non è vero? Insomma, c'è una grande confusione che crea un grande senso di incertezza. Comunque sia, attentoni, fra mille incertezze stiamo entrando in un'epoca nuova. Dobbiamo abituarci, come si dice, a questo give and take, a questi interventi così un po' dirompenti. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas para extender el muro en la frontera. México no cree en los muros. México no pagará ningún muro. Ecco, questo è il presidente messicano Enrico Peña Nieto, il quale dice: il presidente degli Stati Uniti ha firmato due ordini esecutivi che hanno a che fare con il nostro paese. Il Messico non solo non crede in questo muro che separa le nostre strade invece di unirle, ma come ho già detto non pagherà per nessun muro. Ecco, questo era un video che ha distribuito attraverso Twitter. Ecco, a quel punto c'è stato l'intervento di Trump. Nella mattinata di ieri il presidente americano fa un tweet dicendo: beh, questo muro è molto importante, il Messico dovrà pagarlo, se non vuole pagare negoziare per il muro, beh, allora tanto vale che non ci incontriamo neanche nella visita della settimana prossima. Ecco, un tweet di questo genere è inaccettabile, non esiste nella diplomazia, insomma ci sono altri canali attraverso i quali i leader si parlano. E subito dopo, qui stiamo parlando, raccontando appunto l'escalation, subito dopo un altro tweet di Nieto, il quale annuncia alle 11:40 esatte, il quale scrive: vi notifico che con questo mio tweet sto cancellando il mio viaggio negli Stati Uniti. Tra l'altro pensate che in quel momento il ministro degli esteri messicano Luis Caso stava per incontrarsi con il responsabile della sicurezza interna a Washington, con John Kelly, e Caso stava salendo la scalinata per incontrarsi con Kelly, che lo aspettava lì sopra le scale. C'era la bandiera messicana già issata sul pennone quando riceve una telefonata, la telefonata da Mexico City, che gli dice di rientrare immediatamente a casa. E quindi l'incontro non c'è mai stato, si sono visti da lontano per le scale e dopodiché il ministro degli esteri ha ripreso l'aereo e se n'è ritornato indietro. Insomma, c'è l'idea che a questo punto tutti dovrebbero fare un pochino un passo indietro. Infatti in serata ci sono state delle dichiarazioni americane che hanno detto: beh, insomma, ci auguriamo di poter riorganizzare questo incontro, è importante continuare il dialogo. Lo stesso hanno fatto i messicani: quando il momento sarà giusto probabilmente ci rivedremo. Trump nel frattempo, quando ha parlato al convegno repubblicano di Filadelfia, ha detto: beh, io sono costretto a perseguire altre strade, visto che in Messico non vuole pagare per il muro. Quali sono queste strade? Allora, smantellare il NAFTA, applicare appunto questa tariffa del 20% di cui vi parlavo, come dire, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi, precisazioni, capire se davvero si va in quella direzione o no, non resta che segnalarvi che oggi toccherà all'Europa. Più tardi Theresa May, primo ministro britannico, si incontrerà con Trump. Ecco, questo vertice è significativo perché è vero che c'è stata sempre una relazione privilegiata con la Gran Bretagna, perfetto, però la Gran Bretagna era dentro l'Unione Europea. Questo vertice avviene dopo l'uscita di Londra dall'Unione Europea. La Gran Bretagna è fuori, tecnicamente non lo è fuori ancora, ma insomma simbolicamente è fuori dall'Unione Europea. Cosa vuole significare? Questo vuole significare da parte di Trump che il rapporto con il Regno Unito è più importante di quello che gli Stati Uniti possono avere con tutti gli altri paesi europei messi insieme. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, muro, muro, muro, non si parla d'altro. È stato questo muro che tra l'altro in parte già esisteva, c'erano 700 miglia già costruite, ma Trump vuole fare tutte le 2000 miglia del confine con il Messico, e dunque di David Crosby e Jerry Garcia vi propongo The Wall Song. Stumbling half blinded and dry as the wind that strays you and leads you to lie in the sand, and the wall stretches endless beside you to nowhere. This wall. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.